Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. La donna accanto a me nulla aveva che potesse tradire in qualche maniera il suo stato di viaggiatrice, se non il fatto che fosse vestita da bambina. Vestita da bambina e acconciata da bambina. Ma bambina ella non era, e quindi un motivo profondo ci sarà per cui quella donna, dall'aspetto più che piacevole, dal portamento giovanile, comunque si vestisse da bambina. Devo capire perché. A cosa risponde questa necessità? Un gusto estetico, una predilezione, un recupero di vieti che magari aveva avuto da piccola, che la vestivano sempre da suorina, da donnina grande, con vestiti eleganti che lei non amava, sceglieva la mamma, la nonna, la zia. Perché adesso lei che avrà, non so già quanti anni ha, 30, 40, forse 50, eppure si veste da bambina. Un motivo ci sarà. Cominciamo dalla storia, dall'inizio. Cosa era successo in quel periodo della tua vita? Per dimenticare una persona di cui ero innamorata, ho cominciato a essere... Aspetta, aveva lasciato l'altra persona? No, l'altra persona, avevamo provato comunque ad avere una storia, non andava, io mi ero innamorata, lui no, e quindi niente. Quanto era durata? Ma qualche mese. Ma neanche così, niente. Sì, non sì. Era un trauma fortissimo. No, nessun trauma fortissimo. Quindi però... devi dimenticarsi, abbiamo un chiodo scaccia chiodo. Dico proviamo, ho iniziato l'epoca di Facebook, così metti la foto profilo che te la fai da solo. Carina, fatta bene. E cercavi uomini. E come ero messa così, insomma, cioè comunque mi ero messa sul mercato. Ma come ci si mette? No, fammi capire, come ci si mette sul mercato? A parte la foto. Cominci, io avevo 3. Quindi ero una delle prime che aveva la telecamera reversa, perché c'era la videotelefonata che non ho mai usato. Ah, quindi potevi mettere. Facevo la foto, nessuno lo sapeva. Tutte quindi foto... gli albori del selfie, quando ancora non si chiamava nemmeno selfie. No, non c'era nessuno, io avevo la telecamera reversa e quindi mi vedevo e riuscivo a fare queste foto in cui stavo bene. Che erano i primi telefonini, è vero. I primi telefonini, 3, la videotelefonata non l'ha usata nessuno, quindi ho cominciato ad avere tutte queste foto, ho detto adesso... le metto su Facebook. E neanche succede. No, comunque hai un funzionava. Certo riscontro, sì. E quindi ma le foto erano abbinate foto sempre a offerte, di faccia. Offerte sono disponibili. Cioè no, io metto in genere solo la faccia e... la gente su t'abboccava. Poi agli albori di Facebook. Agli albori, questo agli albori. E quindi ho conosciuto... Beh, c'era poca gente ancora. Non si capiva bene cosa servisse Facebook. No, infatti dipende da come lo usi poi da. E quindi dallo la scopo. Sera tu raccoglievi... Raccoglievo consensi così, va bene. E quindi diciamo su Roma pure mi ero organizzata. Li volevi vicino a casa naturalmente. C'ho avuto anche delle persone che viaggiavano, che hanno fatto da Genova. Tu eri sempre stabile però, loro si muovevano. Si muovevano, no, mi sono mossa pure io, sono andata a Bergamo. Sei andata in transumanza amorosa. Sì. Quindi hai bruciato diciamo i tempi. Ho bruciato i tempi. Accadeva sì. Questo quanti anni fa? Questo accadeva nel 2009. Beh, qua se ne parlava pochissimo ancora. Pochi, sì c'era, ma non era come diffuso oggi erano tutti. Poi ancora non c'erano nemmeno. Sì, no, gli smartphone già esistevano. Sì. Io non avevo solo questo della 3 con la telecamera reversa, sì. Che e però quindi, ha salvato la situazione. Sì, ha salvato la situazione perché ho riscattato un passato infame da nerd a scuola in cui ero assolutamente brutta. I miei compagni di scuola mettono le foto e io non le taggo e niente, quindi ho, diciamo, riscattato tutto il mio passato infame. Quindi ti sentivi bella nelle tue foto che stavano sul Facebook? Cioè agli albori dei 40 anni comunque ho avuto il mio massimo successo. Un ritorno di fiamma, no, proprio un inizio, cioè tutta, ho recuperato tutta una parte, sì, che non avevo. Nella fase, diciamo, dell'abboccamento sì, che buttavi l'esca, c'era un po' di simulazione, mistificazione, facevi credere che eri quello che non eri? Un pochino si sì, credono quello che non sono, perché poi non sono così spregiudicata, poi alla fine sono... Poi lì sembrai molto spregiudicata. Sì, sembro una molto disponibile, navigata. Sì, sì. Però in quel periodo lo ero pure diventata, finché poi non mi sono innamorata di uno degli astanti, diciamo. Quindi hai avuto un periodo di follia, come tutte le donne, quando escono da un amore, sì, o anche gli uomini. Sì. Solo per gli uomini è più difficile. Sì. No, mette la foto su Facebook, chi lo calcola? La donna dice, voglio un periodo di follia, mette la foto, sai... come buttare la rete, i pesci vengono alla galla. Certo, infatti, se non metti in vetrina vuol dire che non vuoi vendere. A cercare le cozze con le sue mani e raschiarle con le unghie dallo scoglio. No, infatti. E quindi niente, poi alla fine... Allora, in questo pescare qual è stato l'acchiappo migliore? L'acchiappo migliore è stato un musicista, perché tanto sto sempre in quell'ambiente. Musicista, beh, quindi anche un artista. Sì, di 10 anni di meno pure lui. Quindi perché, un ragazzino. Ma io sempre più piccoli, perché sembro più piccola. Mia madre lo diceva, dice, comunque tu se ci avrai qualcuno deve essere più piccolo. Beh, una fortuna comunque. Diciamo di sì, però insomma a volte poi ti trovi in situazioni... Sono i vecchi anche... maialoni che cercano le bambine. Vecchio maialone non... Ma lei, però ci hanno provato. No, si sembri tengo... bambina, ti fai le treccine, già sembri una bambina. Sembri una 19enne, ecco. Li tengo, no, loro li tengo a distanza comunque. Allora, questo ragazzetto com'è andata? L'incontro com'è stato? No, l'incontro è stato molto romantico. Lui suonava, faceva delle serate, quindi mi dedicava anche delle canzoni. E tu cos'è, che la sua musa ispiratrice? Lui diceva sì, invece poi ho scoperto che era impegnato. Vabbè, c'è un secondo impegno. È la base. Il treno va. Bentornati a bordo. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Due impegni. Quindi sì. Una moglie e un amante. Sì, già. La moglie diceva che erano separati. Sì, come fratello e sorella. Sì, non era. L'amante c'era. Allora, poi c'era anche l'amante. Quindi tu eri l'amante dell'amante. Quando ho scoperto questo, infatti. Il terzo impegno. Vabbè, però qua ci sta, nella letteratura è banale. Uno ha la moglie, si stufa, si fa un amante. L'amante un po' si immoglizza. Sì. Dopo 2 o 3 mesi l'amante diventa come la moglie e le farsi l'amante dell'amante. Sì, sì, ma infatti anzi, un già fenomeno, andata, guarda, il terzo veramente. Impegno è già andata bene. Sì, sì, no. C'è gente che conosco sta al sesto impegno. Sì. Però è un fenomeno, è da togliersi il cappello, insomma, una persona ma che riesce. Cosa ti meraviglia? Come li gestisce? Sì, questo me lo sono chiesto. Tu come l'hai scoperto? Io l'ho scoperto andando fuori il lavoro, perché ci volevo parlare, l'ho visto in macchina con una collega. Col secondo impegno? Molto vicini, col secondo impegno, o il terzo, non lo so, adesso... E erano in equivocabile atteggiamento, certo, promiscuo. Sì, parlavano da molto vicino. E tu sei intervenuta lì o... No, non ci sono riuscita. Appena ti sei lui è sceso con sono... il tuo dolore? Sì, no, appena sceso sono intervenuta. Hai detto sono qua, e lui che ha detto? Ha detto ti amo. Ti amo, ha detto, sì. Beh, grande. Sì. E che ha detto? Stavo lasciandomi con lei, una vecchia storia, che ti ha detto? Non è come sembra, non... Sì, vabbè, queste sono le barzellette di Fantozzi, non è come sembra, dai. No, e niente, ho cercato, insomma, ha detto di ti amo, anzi, sì. Lei non è nulla per me. Poi mi ha dato un bacio, mi ha baciato, sì. Con il rossetto ancora di quell'altro sulla bocca. Sì. E io... Non ti ha fatto senso? No, perché io appunto appena sliguazzato finta, l'altra. Sono una finta spregiudicata, poi alla fine me le bevo queste cose, per cui... E tu hai creduto che ti amasse? In quel momento sì. Ma alla cosa fine, ha detto? Con quella lì che sta facendo? Cioè, se è sentita male la stavo aiutando? Non mi ha dato molte spiegazioni. Le facevo perché io prendere ero incavolata. Un po' d'aria. Cioè, per me lì è chiusa, è finita quella sera. Ma invece è continuata? No, era finita. Ah, l'hai chiusa veramente? Sì, sì. E lì, per riconsolarmi, ho conosciuto un altro di 10 anni di meno, sempre di 33 anni. Ah, questa era la storia chiusa? Questa sì. Il numero ti andava bene. Sì, un altro musicista e niente, lui si era perdutamente innamorato di me. Eri la numero uno in questo caso? Sì, ero la numero prima uno. Scelta, sicuro? Prima scelta, sicurissima. Ma che prova sì. Ne avevi? No, ne avevo, insomma, cioè, io vivevate insieme? No, non ho voluto mai vivere. Questo insieme, stava a Roma anche lui o no? Stava a Roma anche lui. Ah, quindi in casa pescare? Sì, no, io non ho voluto, lui mi ha chiesto anche di sposarmi. E perché non l'hai sposato? Perché io assolutamente sono, innanzitutto... Ma eri innamorata? No. purtroppo. Lo so, lo posso dire adesso, però lì per lì comunque mi sono fatta. Tutte donne si innamorano sempre quelli che le tratta male. Era innamorata ancora del primo. No, mi è passata, grazie a lui mi è passata, perché ho pensato, vabbè, mi metto con una persona che comunque sicuramente non mi farà soffrire. Innamorata non di si me. Comanda, vecchia com'è. Ecco, e quindi per un po' è andata bene, e poi la cosa è diventata inversamente proporzionale. È finita che io ho avuto tantissime corna. Mi sono fatta pure una foto con le. Ah, lui ti ha fatto le cose? Sì. Cioè, sì, prima sì. Ti voleva sposare, è innamorato, sì. E tu l'hai un pochino. L'ho stoppato, ho detto no, tu vivi ancora con i tuoi genitori, devi prima andare a vivere da solo, non puoi passare da. C'è del giusto in quello sì, che dice. E poi comunque era piccolo, e poi io comunque non volevo. Piccolo, 33 anni, piccolo. Ma io già l'ho fatta la convivenza. C'è nipoti a 33 anni. Io comunque non volevo, e naturalmente capisco adesso perché non ero innamorata. Però lui aveva investito in te come l'amore della sua vita, tu l'hai rifiutato. Sei diventata la numero 6? No, dopo, perché no, lì per lì stavo bene, per me era una compagnia, stavo bene, mi faceva sentire importante, eccetera. Poi la cosa si è invertita, io quindi ho subito. L'inversione da come è avvenuta? Ma lui c'è ha smesso stato di momento. Dirti sposiamoci. Sì, quello subito, sì, ho capito che avevo ragione. Sì, però cazzo, ha rinnegato pure che mi ha detto questa cosa, ha detto no, vabbè, te l'ho detta così. Ah, quindi non era serio? No, l'ha rinnegato alla fine dei jogging, ha detto. Ma sai, strano, perché di solito quello che tutte le donne della tua generazione cercano, un uomo che si innamora, che vuol prendersi un impegno serio, ecco. E tu dici no. E questo è il problema mio, io non, cioè, tendenzialmente non voglio legami. E lui per ripicca è diventato un traditore. No, siamo stati un periodo di stasi, siamo stati amici, secondo me siamo stati dei buoni amici, abbiamo condiviso delle cose insieme, poi la cosa ha cominciato a rovesciarsi, perché io comunque fondamentalmente ho bisogno di una compagnia, perché ho le mie carenze, diciamo. Ma tu gli chiedevi sposami dopo un po', no? No. E che gli chiedevi te? Niente? Niente, non volevo convivere, non volevo che veniva a dormire da me perché si alzava troppo tardi e mi scocciava, non volevo dormire da lui perché non mi potevo alzare. Beh, la domenica. Guarda, con questi sani principi, che sono sani, trovo sani, ma non c'è bisogno che tu cerchi un uomo, perché tanto non ce l'avrai mai, perché, no, ti farà schifo il primo giorno che dorme da te e salza nell'ora sbagliata, finirà l'amore, quindi ti conviene rimanere in queste situazioni fluttuanti, penso, no? Sì, ma infatti basta avere la testa, perché poi comunque. E adesso è ancora in piedi questa storia? No, questa è finita da 16 mesi, mi ricordo benissimo. Ah, tutte le date. Ah, sì. È fresca lì. Sì, è finita. E come è finita? No, è finita che per 6 mesi lui ha avuto un'altra donna. E tu lo frequentavi lo stesso? Non lo sapevo, io frequentavo pure la donna, ero contenta. Ah, con un'amica comune? Sì. Quindi un'infame terribile. E quindi niente, per lei faceva mesi, l'amica e ti portava sì, via l'uomo? Sì, mi scriveva pure su Facebook i commenti, sei una grande, cioè mi mandava i cuoricini, così, quindi così. E com'è fatta a scoprirla? Diciamo che non ci sarei, diciamo che mi ci hanno portato, ecco. E com'è? Spiegami il momento della scoperta, com'è stato? Il momento della scoperta è stato che mi tornavano tutti i conti, diciamo che me l'hanno detto poi alla fine. Noi stiamo insieme. No, me l'ha detto un amico che sapeva. Dice, che tutti guarda, sapevano naturalmente. Tutti sapevano tranne me, infatti poi gli dissi questo, dico perché tutti sanno tranne. No, non è come pensi, non è come credi, perché lui la difendeva comunque, perché lei era impegnata comunque. Ah, lei non poteva dire. Uscivamo pure col suo impegno, sì. L'impegno era sposato o fidanzato? No, è papà del suo figlio, convivono insieme. Ah, quindi sì, vabbè, una bella storia. Luca, lei aveva un compagno e un figlio. Sì. E si faceva l'amico dell'amica. Sì. Il fidanzato dell'amica. Sì. Perché l'ha visto in un concerto, ha detto a me questo mi fa sangue. Proprio. Fortunato l'uomo con cui vive. Sì, se ha un sangue che ribolle in maniera così spontanea e veloce. E qui io capisco il mio errore, cioè io. Ma perché? Che errore hai fatto? Scusa, qual è io te lo dico il mio errore, qual è stato? È un farlocco come quello, ma che hai perso, scusa. No, ma l'errore mio è stato questo, aver scoperto in questi mesi che poi una persona, se tu non l'ami veramente, alla fine se ne accorge e cerca una persona che l'ama. Ah, davvero? Perché lui mi ha detto, io non mi sono mai sentito desiderato così da una donna. E c'ha ragione, cioè gli devo dire, hai ragione. Vabbè, perché io pure posso fare i miei confronti, è la stessa cosa per me. Per cioè, cui, tu, secondo te lui ha cominciato a tradirti perché tu l'amavi poco? Se l'amavo molto forse mi avrebbe tradito lo stesso. Se l'amavi molto sarebbe scappato via, ma cioè, è esattamente la stessa cosa. Le donne espansive spaventano. Gli uomini. Io non so parlare d'amore, non ne so niente, non me ne importa niente, fra l'altro è qualcosa che ormai fa parte del remoto passato, ma io penso che se tu lo vuoi in qualche maniera allucinare, descrivere, sei già finita. Sei attratta a una persona, lui ti dice vorrei stare più vicino a te, e tu gli fai capire che non ci vuoi stare, e quello ci rimane male. In quel momento aveva investito emotivamente tutto su di te. È chiaro che si raffredda. Certo. I capri sotto mano, la moglie assatanata col sangue che ribolle. Col sangue di voi, che deve fare? Scusa, certo, no. Certo. Ma infatti io questo gli vorrei dire. Ma nessuno c'ha, ma manco lei, gli ribolle il sangue, trova uno tutto sommato con una che non ci vuole stare insieme. Che cioè lui era libero fattualmente, capito? Sì, sì, sì. No, di fatto, infatti, io questo, diciamo, questo ho capito. Non ho occasione di dirgliela questa cosa. Gli volevo dire: non ti sentire in colpa, ti libero da ogni senso di colpa, perché la colpa. Ma la colpa, io non mi sarei sentito appunto in colpa. Ma che vuoi da me? Scusa, te l'avevo detto, ti sposo, hai detto no, e mi diverto con le amiche. Ma che vuoi? Certo, di me? Certo. E quindi niente, questo ho capito. Io, siccome ho paura dei sentimenti. Senti, veri, quella lì col sangue di ribolle ti contatta più. No, no, siamo strabannate. Ah, l'hai cancellata, sì, da Facebook? Sì, sì, sì. E se la incontri che fai? Ma non frequentiamo più lo stesso giro, ma se la incontro penso che è indifferente. Per lei sarà stata, anzi, mi ha fatto pure un favore. Tutto, ma lei sarà una storiella così, non è che è una cosa seria per lei, no? No, no, ma è finita. Poi lei, vabbè, una bottarella, sì, così, sì, con, sì, sei mesi così. Una gruppi, ecco. Sì, sì. Lei non vuole rimuovere, gli rappresenti qualcosa di pericoloso. Certo, certo, no. Ma il marito non sa niente. No, no, lui sa e... Ah, sa anche lui? Sì, sa, e mi scrisse a me che comunque io mi devo far da parte perché io non ero bella come la moglie, come la, no, donna. No, fammi capire, il marito era contento? Il marito la difendeva. Un incrocio strano. Sì. Cioè il marito consenziale ha detto: fatti da parte, sì, lascia che mia moglie vada con il tuo fidanzato perché è più bella. No, ma ha detto: non puoi parlare male di lei perché comunque lei almeno è bella, tu chi te se prende? Così proprio mi scrisse queste cose qua. Tutti siamo cornuti, mi ha scritto. Beh, ti sei andata a mettere, secondo me, in un giro un po' strano. Un giro bruttissimo, sì, infatti non lo frequento più. Secondo me tutti erano d'accordo e tu eri l'unica che non sapeva, sì, niente. Infatti. Lì c'era un gran assemblaggio consenziente, sì, di, sì, persone. Sì, infatti, sono cui, persone che non frequento, sì, più. Tu, sì, ma non c'entravi niente. No, te, assolutamente avranno, no. Avranno riso alle tue spalle, pensa a quella, ah, dai, passami qua, dai, girati sopra, già, butta dentro, è così. Sì. Ma sì, non c'entri niente, te. Sì, sì, assolutamente. Cosa hai fatto? Niente, sto sola e niente, ogni tanto ho qualche avventura. Quanto durano queste avventure? Pochissimo. Tipo? Settimana? Sì, una o due settimane, cose di questo tipo. E o nulla. Scusami, non è che le categorie sono tante, te sono, te sposi. Ti sposi come quello lì con la passione, e però è una coppia aperta. Convivi, te non ti è andato di convivere. C'è un fidanzato che vedi ogni tanto, e almeno questo è andato bene. C'hai delle storie che finché durano te le tieni. Hai esaurito tutti, certo, i campi. Ciao, buon viaggio. Ciao. Il treno va. Ricordiamo ai signori viaggiatori che il treno va non effettua servizio di prenotazione obbligatoria con posti assegnati. Lo chiamerò l'uomo dal fiero passo. Fieramente attraversa il corridoio degli scompartimenti. Fieramente sorpassa anche il carrello del dolce salato, aranciata rossa o aranciata amara. Comunque lui passa, fende veloci, con lo sguardo che sembra sfidare tutte le persone sedute. Cosa avrà di orgoglio così palese e così ostentato questo signore che mi si siede proprio davanti? E quindi non posso fare a meno di domandarglielo. E capisco che la sua è una storia che affonda nel suo ruolo di padre. Cominciamo dal racconto di un padre che osserva una figlia e, consultandosi con la madre, a un certo punto si fanno delle domande. Che domande vi siete fatti voi? Quando ve le siete fatte? Ma me la sono fatto principalmente io, mi sono fatto questa domanda, perché l'ho visto che giocava, gli piace giocare il calcio, che l'ho portato anche a giocare a calcio, il calcio femminile, e poi vi dicendo, crescendo, quello che era la chitarra, così via. Però a un certo punto della vita l'ho visto che era strano, intorno ai 15 anni, soffriva dentro. Non, diciamo, finché che... era bambina aveva soltanto dei comportamenti che non erano proprio esattamente quelli delle sue compagne di classe. Fino a 15 anni? Sì, fino a 14-15 anni. Ma a scuola si comportava in maniera diversa, creava problemi o era soltanto, no, una sua... No, socializzava benissimo con tutti, aveva tanti compagni, tanti amici. Io ero un papà contento che mia figlia spiccava. Quindi era solo un problema che si poneva a lei, una domanda che si faceva, perché sennò la sua vita era completamente normale della figlia. Sì, sì, Sì, completamente normale, vestiti, completamente normale. Cioè a scuola gli insegnanti non avevano nulla da dire e si comportava normalmente? Questo alle elementari non nulla da dire, alle medie neanche. L'ho avuto il problema, l'ho avuto alle superiori. Quando è diventata una ragazza, è cresciuta. Esatto, il problema è che non si sono evidenziati naturalmente, però io ho cominciato a indagare, ho cominciato a mettere delle cimici in casa, nel computer, e indagavo sul computer cosa facesse. Ah, c'è proprio la spiava proprio? Sì, ho cominciato a spiare. Ma perché? Qual era il suo rovello? Perché pensavo che mia figlia avesse qualche problema oscuro che io non sapevo. Volevo essere più vicino e poterla aiutare e lei non me lo permetteva. Ma solo perché giocava a calcetto o non si no, metteva... No, perché aveva avuto di colpo un comportamento strano, scuro. Non sapevo cosa potesse fare mia figlia nel suo tempo libero. Ma non le diceva esco con un amico, con un'amica? Ma era spesso al computer e questo mi preoccupava. Mi preoccupavo perché... Ma però un po' tutti i ragazzi della sua generazione... Sì, ma io c'è stato un attimo in cui ho avuto un senso di allarme, non so per quale motivo, un senso paterno, chiamiamolo così, un senso di indagine. E in cui ho visto che anche un po' la mia figlia grande mi diceva che papà c'è qualcosa che non torna. E non so che cos'è. Ma perché non gliel'avete chiesto? Avete provato a chiederlo alla ragazza? Non si apriva. A un certo punto. Nemmeno con la madre? No. A un certo punto gli ho svelato che la stavo spiando e le ho messo delle cimici anche nel computer. E ma delle cimici cosa aveva capito? Ha capito qualcosa di nuovo? Stava scappando via di casa con una ragazza di. Mi sembra di Firenze. Ah, beh, no. Stava organizzando una fuga da casa con la sua amica. Una fuga che non capivo. A un certo punto io con delle canzoni di Mia Martini, mi ricordo, di Mia Martini e così via, di qualche attore, cantante e così via, un giorno in macchina ho detto tu sei diversa, ma mi piaci tanto. Poi a casa un giorno l'ho preso di petto e ho detto oggi, stasera, mi ricordo era il 25 ottobre, dissi questa è la sera della verità, oggi io so che tu sei una ragazza splendida, bellissima, ma hai qualcosa di diverso dentro di te che me la devi raccontare. Ma perché doveva per forza forzarla a raccontare la sua vita personale? Qual era il problema? Perché mi stava scappando via. Perché lei soffriva, lo voleva svelare e non aveva il coraggio. Era convinto che sua figlia questo segreto volesse raccontarlo. E quanto io le ho detto, figlia mia, tu non sei diversa, sei normale, solo che hai una tendenza in un'altra zona, però se lei si è abbracciata a me, non le dico scoppiata di gioia, perché si era liberata, si era sfogata, ha capito che noi genitori eravamo presenti, eravamo sul fianco. Cioè ha capito, lo avevate capito e per voi non era un problema, ecco. Non era un problema per noi, cioè per noi era normalissimo, avevo una figlia sana, felice. Ero sempre stato orgoglioso di lei, anche lei orgogliosa. Ma alla fine qual era il problema? Che era attratta da ragazze piuttosto che da ragazzi? Questa è la esatto, fine, la lei sintesi. Ha avuto anche un ragazzo, non è che non l'ha avuto, ma era tutta una maschera, era tutta una maschera. Solo che però alle superiore, quando faceva ragioneria, cosa succede? Che lì così, gli amici non l'hanno mai discriminata, forse qualcuno sicuramente, ma ha avuto problemi con qualche professore. Perché con qualche professore? Cosa faceva di sbagliato? Vede che la sua natura non gli piaceva e di conseguenza l'hanno anche penalizzata quando sei diplomata. L'hanno diplomata, cioè, con un voto un po' scasso in cui oggi all'università... Ma non aveva rendimento a scuola? Qual era il problema? No, aveva rendimento, solo che era ostacolata da qualche professore, perché era diversa. Cioè, era così, diciamo, un problema per i professori, ma diversa, io capisco, perché nella sfera affettiva, sentimentale, ma nel campo dello studio che problema può dare... C'è un po' di discriminazione ancora in merito, c'è discriminazione. Io... Ma cosa c'è? Andava a scuola vestita da uomo? Qual era la cosa evidente? No, andava vestita da donna, quando? Ma lì perché aveva una compagna a scuola che si frequentavano insieme. Ah, quindi dava l'impressione che avesse una storia con una compagna invece no, con lei aveva una storia con la sua compagna. E quindi lo sapevano tutti, lo sapevano tutti e quindi questo creava un problema. Sì, questo crea un problema. Quindi gli altri lo sapevano da prima di lei, diciamo, in classe lo sapevano tutti prima di lei. Ma diciamo bored, eravamo quasi là, lì per lì quasi tutti lo sapevano. Io poi quando l'ho capito fosse per i suoi compagni e la cosa è stata un po' ufficializzata. Ma per i compagni era un problema, oggi mi sembra abbastanza normale, no, per loro. È normalissimo, anzi mia figlia vive una vita veramente magnifica. Cioè, ma era stata mai bullizzata a scuola, discriminata, come spesso accade? Ma forse due o tre compagni, forse sì, due o tre compagni. Ma l'ha raccontato poi sua figlia? Sì, ma niente di che, non ha mai portato rancore verso nessuno di mia figlia, anzi ha cercato sempre di vivere la vita più liberamente possibile, con ovviamente il dovuto rispetto verso tutti. E l'atteggiamento di sua moglie quando l'ha saputo qual è stato? Guarda, non bene, non bene. L'ha presa male la madre? Sì, l'ha presa male, perché io poi avevo un po' sviluppato appunto questa mia curiosità, ho scoperto diciamo così questa deviazione, se vogliamo chiamarla così, ma non è una deviazione, per me mia figlia è normalissima. E mia moglie dice no, portiamo da un medico, un professore. E il medico cosa doveva fare secondo sua moglie? Ma forse, non so, con una cura ormonale o qualcosa, deviarla in una direzione più femminile. Cioè sua moglie pensava che poteva, diciamo, sì, riportarla alla normalità con una cura, ma qualcuno gliel'aveva consigliata questa cura? No, perché c'era qualche su internet, qualche trasmissione, qualcosa, che c'era qualche professore che a quei tempi indirizzava questi tipi di cure, o se una persona avesse... Beh, oddio, bisogna andarsi proprio a cercare, perché... Certo, ma non sono certo professori che si muovono nell'ambito della scienza. No, non è nel campo della scienza, quelle scienze stupide, diciamo così, persone stupide. Cioè, un guaritore, qualcuno del genere. Esatto, però io dissi a mia moglie, no, guarda, niente, tutto questo... E cosa la fagli? Che cura la fagli? Portarla a un dottore e fargli dare degli ormoni? No, l'ho subito spento. Ma lei cosa pensava la moglie? Cioè, portiamola da un dottore? Ma dicevo, vediamo un po' qualche centro, qualcosa. Un centro di recupero. Ma è possibile che nostra figlia, una fantastica, sana, in direzione dritta, lei invece ha questa tendenza, io dicevo, senti, stai tranquilla, è la sua natura, è nata così e sarà così, e io sono felice che è così. Anzi, è una ragazza sana, e poi si è convinta anche lei. Ma il resto dei parenti che dice, alle nonne, le zie, a un certo punto gli avete detto, guarda, che la figlia nostra avrà una fidanzata e non un fidanzato? A un certo punto io qualche anno fa disse, guarda, io sono stanco di tenermi questo segreto in famiglia. Mia moglie non era d'accordo. Io dissi, no, mia figlia deve essere una donna libera, una ragazza libera. Saranno fatti della figlia di dirlo? No, scusi se mi permetto, ma... No, ma mia figlia voleva liberarsi di questo, perché l'avevo già nutrito che lei voleva frequentare con la sua compagna, la famiglia, essere più andare a trovare la nonna con la compagna. Sì, aveva una fidanzata e per lei era come un fidanzato. Quindi esatto. E io ero molto orgoglioso di questa cosa qua, e lo sono ancora tutt'oggi. E a un certo punto io ho preparato un attimino un po' tutti, usando la festicciola, e a un certo punto ho detto, guarda, io purtroppo ho la fortuna che ho mia figlia che si è fidanzata, e questa è la sua fidanzata. E sono rimasti un attimino che non ho già capito un po', perché sai quei parenti che sanno e non sanno e così via. E mia figlia, non ti dico, si è abbracciata al mio collo della gioia, della manifestazione, che ha visto anche tanti parenti stringersi intorno a sé. Cioè, ha introdotto in famiglia anche la fidanzata di sua figlia, come fosse... Esatto. E mia figlia attualmente è quella libera, va a trovare i nonni, va a trovare i zii, è veramente una ragazza felice. Anche perché, passato il primo impatto, poi non ci fa più caso nessuno. Esatto. Adesso sua figlia cosa fa? Vive ancora in casa con lei, oppure... Vive ancora in casa con me, perché è ancora piccola. Quanti anni ha? Ha 23 anni. È piccola. Ma si sta studiando. Sta studiando. Quali sono i progetti? Di andare a vivere assieme alla sua fidanzata? Certo, sono molto orgoglioso di avere una figlia che qualsiasi problema ce lo raccontiamo. L'unico ostacolo che trovo ancora da superare è nel sociale, proprio fuori dalla famiglia, quello sì. Mi creda, io lì faccio anch'io tanti amici che... Cioè, a raccontarlo agli amici, c'ho la figlia che è fidanzata con una donna. No, qualcuno l'ho sbaccato, io recentemente ho sbaccato un'amica di famiglia che quando io ho parlato dicevo di, si parlava di omosessualità, di gay e così via, io ho pronunciato la parola gay e lei disse: sei un ignorante, non capisci niente, mi disse. Beh, non sai neanche cosa vuol dire, mi disse. E io gli diedi uno smack, gli dico: tu pensi che non sai cosa vuol dire, tu pensi che ho una figlia che è gay. Cioè, e questa è rimasta di stucco. E gli fa: come? Tanto non mi viene a insegnare cosa vuol dire la parola gay, io non è una parola discriminante, è un'etichetta che tanti mettono, ma per me sono persone come tutti gli altri, normalissimo, anzi la loro sessualità è una cosa loro privata, cioè, però la sua tendenza e basta, fine la sua vita e devono essere liberi. Va bene, il suo orgoglio le fa senz'altro. Io sono una persona molto orgogliosa in questo. Va bene, la ringrazio molto, buon viaggio, bella. Grazie. Storia, a presto. A presto. Auguri, auguri alla figlia, auguri a tutti. Grazie ancora, buona giornata. Prego. Il treno va. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Vorrei chiedere tregua ai miei ascoltatori, soprattutto per quello che riguarda l'audiolettera. L'audiolettera è quella maniera che voi avete ormai per comunicarmi un vostro stato d'animo, una vostra storia, senza avere comunque il coraggio, la faccia tosta o anche l'occasione concreta e reale di venirmi a cercare lungo i miei viaggi e sedervi di fronte a me e raccontarmela de viso. Queste lettere negli anni hanno rappresentato quasi l'esplodere in una mia vocazione mai immaginata e tuttora rinnegata, di poter avere qualcosa da dire nelle vostre questioni d'amore. Ciao Gianluca, ti seguo da tanti anni, da tanto tempo volevo scriverti. Ora mi sono decisa e spero che questa mia lettera ti raggiunga sul tuo treno. La prima cosa che ti volevo dire è che io ho conosciuto l'uomo che amo e con cui ora vivo grazie a te. Sì, l'avevo sentito al telefono a Melog, esattamente in una puntata del 2010 in cui parlasti di come evitare lo stress del ritorno al lavoro il lunedì mattina. L'ho rintracciato e abbiamo cominciato a frequentarci. Apparentemente non abbiamo molto in comune, io ho 64 anni e lui 61. Io non sono mai stata sposata e non ho mai avuto figli, lui invece ha avuto 3 figli e già nonno, eppure è scoppiato l'amore tra noi. Anche se lui è nato a 6 km dal mio paese, io non l'avevo mai conosciuto, ma dopo che ci siamo sentiti al telefono abbiamo iniziato a vederci per fare visita a un comune amico ammalato. È da lì che è nato qualcosa. Penso di essermi innamorata dell'uomo in questione essenzialmente per la particolarità del suo pensiero inconsueto e per le modalità originali con cui ha affrontato le difficoltà della vita, in alcuni casi gravi e tragiche. È nelle difficoltà che si vedono gli uomini, e cioè quando riescono a dare leggerezza e passione, nonostante i problemi, non trovi? Credo dirti, cara amica, ognuno si innamora per i motivi che crede. Ognuno ha i suoi luoghi indicibili, indecifrabili, inimmaginabili, in cui sboccia la passione. Ma quello che volevo sottolineare con questa mia lettera è che, apprezzando io il tuo pensiero non convenzionale, voglio sapere cosa ne pensi di una storia d'amore sbocciata così tardi. L'amore per me è arrivato a 57 anni, quando ormai non ci speravo più. Pensa che ero single da più di 10 anni. E questa passione è nata per un uomo che ha convinzioni molto inusuali sulla coppia e sulle sue dinamiche di relazione. Dunque io non credo che le passioni ci siano solo a 20 anni, non credo che dopo i 50 o 60 ci si metta insieme solo per interesse reciproco, per paura della solitudine e cose simili. E io ne sono la prova, se non fossi innamorata non ti avrei scritto. Oppure anche tu pensi dunque che io sia solo un'eccezione che conferma la regola? Mi chiedi se considero un'eccezione il fatto che tu a 57 anni abbia avuto una passione, ma conosco decine di persone che in età anche più attempate della tua hanno passioni continue, multiple, contrastate, incrociate, corroboranti o distruttive per loro. Non è una cosa del tutto originale il fatto che tu a 57 anni ti sia ritrovato un ometto. Buon pro ti faccia. Cos'è che ti sorprende in questo? Il fatto che tu per 10 anni sia rimasta all'asciutto? Beh, potevi pensarci prima, avevi 47 anni, avevi la vita davanti, era una giovane donna che poteva ancora cogliere a piene mani il frutto succoso della passione. Perché hai aspettato 10 anni a guardare dalla finestra e poi ti sei presa l'infermiere? Tu dici, pensi che possa essere una sorta di elemento di sicurezza per il tuo futuro? Beh, certo, è chiaro, è palese, è lampante. Ora tu mi dici tra le righe che in realtà l'oggetto della tua passione è quella sorta di balzana e irrituale maniera che ha quest'uomo di affrontare la vita. Mia cara, non ritenerti offesa, ma di fronte a quello che è il ritratto della tua esistenza che mi hai fatto, di 10 anni in attesa, di lunga, eterna e incolmabile solitudine, ahimè, ogni signore che si affaccia solo per un attimo nel tuo orizzonte è improvvisamente un cavaliere sconosciuto, un principe azzurro. Se tu forse avessi un pochino più frequentato in tutte le sue sfaccettature il genere umano, rischiando anche di bruciarti quelle ben curate penne della tua coda, probabilmente avresti fatto scelte più oculate. Questo comunque ti è toccato, te lo sei preso, l'hai accalappiato e non lo lascerai più. Tranquilla, ti seguirà fino all'ultimo istante, sarà un ottimo infermiere e forse anche un discreto amante, anche perché poi non hai tanti termini di paragone.